tutte le fotografie dei campi di battaglia, Seconda Guerra Mondiale, Guerra di Corea, Indocina, Guerra del Medio Oriente prima delle guerre del Golfo, quando vi fanno vedere la fotografia di un carro armato messo fuori combattimento, voi vedete un oggetto che più o meno ha la silhouette ancora del carro armato, vabbè, un po' messo di sbieco, con la torretta girata. Fotografie più ravvicinate, vedete che c'è uno squarcio, un buco, quello che ha fatto il proiettile, e dentro trovate i corpi carbonizzati dei carristi, perché il proiettile che fa il buco nella corazza, entra dentro, l'attrito con l'aria, con l'aria è un'aria densa di vapori di benzina del motore del carro armato, questi vapori di benzina si infiammano per effetto dell'attrito e quelli bruciano vivi dentro la fiammata che si prova. Quindi questo è lo spettacolo. Però il carro armato è stato solo bucato, capito? Invece dalla guerra del Golfo in poi voi vedete gli oggetti che hanno perso la loro silhouette, sono diventate delle masse di acciaio fuso, una palla di acciaio fuso. Un carro armato pesa non meno di 30 tonnellate quando non 40. Dice, cacchio, qua è stato colpito da un oggetto che ha liberato tanta energia da fondere 30 tonnellate d'acciaio. E che diavolo, e che è arrivato qua? Vedete la domanda, no? Poi andate a vedere vicino e misurate lì e solo lì della radioattività. Vi allontanate di 40 metri e non c'è più niente. E qua abbiamo una radioattività localizzata. Cioè, a Hiroshima la radioattività si espandeva per chilometri. Era un'intera città che... Qua abbiamo una zona di 40 metri, di 20 metri, di 30 metri radioattiva e niente fuori di questa zona. E non solo, ma vediamo qui un carro armato che è stato fuso. Fuso. Inoltre, i cadaveri, fuso non bruciato, inoltre i cadaveri non sono carbonizzati. Questa è la cosa più stupefacente trovata dai medici militari, che in altri documentari, non in questa, è stata mostrata. I cadaveri sono neri, come se fossero di africani, ma neri non bruciati, perché i baffi, le sopracciglia, i capelli ce l'hanno ancora, non sono bruciati. È come se avessero fatto una super lampada, capisci, abbronzante. E infatti uno, per abbronzarsi, fa la lampada all'ultravioletto. Qua invece le radiazioni sono radiazioni gamma, molto più energetiche dell'ultravioletto, quindi hanno fatto una super lampada e si sono presi una bella abbronzatura e si sono abbronzati. E la domanda dice, perché lui dice sì, ma sono gli iracheni che sono di pelle scura, quando mai gli iracheni sono di razza bianca? Quindi perché sono diventati neri? No, e non è un nero carbone, cioè non si sono carbonizzati, si sono anneriti. Qua stanno cambiando, qua c'è evidentemente qualcosa di nuovo, capite? Non esiste nessuna spiegazione convenzionale che tenga conto di questi fatti, capite? Dopodiché che cosa succede? Perché il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, dicono i cattolici. E in questo caso è uno dei rari casi in cui hanno ragione. Perché che cosa succede? Siccome quest'arma era stata usata evidentemente per la prima volta, alla fine della prima guerra del Golfo, i campi di battaglia in cui quest'arma era stata usata vennero vietati agli estranei, per estranei intendi militari degli altri paesi, e vennero occupati con esclusività dalle truppe anglo-americane. Dopodiché passa il tempo e c'erano anche i bambini iracheni, civili iracheni che infestavano, magari andavano proprio a rovistare lì per vedere se trovavano qualcosa di utilizzabile. Nei mesi successivi cominciano a dilagare le morti, non solo nella popolazione civile, ma tra i militari anglo-americani, per cui alla fin fine le perdite anglo-americane nella prima guerra del Golfo sono state paragonabili a quelle irachene, con la differenza che quelle irachene sono avvenute tutte subito e quelle anglo-americane con calma nei mesi e negli anni successivi. E come si spiega? La radioattività, a cui gli astuti pianificatori evidentemente non avevano pensato, cioè quegli oggetti diventano radioattivi, per cui coloro che si sono aggirati per i campi di battaglia, sia volontariamente i militari, sia involontariamente e inconsapevolmente i civili, si sono pigliati una bella dose di radiazione e per cui ne hanno pagato le conseguenze. Nella seconda applicazione, che è stata la guerra nei Balcani, resi esperti dalla prima guerra, sui campi di battaglia ci hanno mandato gli italiani. E infatti il fenomeno ha colpito i soldati italiani, che hanno cominciato a morire in numero non piccolo, diciamo. Mentre gli americani se ne sono tenuti alla larga dalle zone che avevano bombardato. Adesso vi do ulteriori fatti, questi mi parlano abbastanza significativi. Naturalmente, da quello che vi ho detto, la potenza di queste armi è variabile, dipende da quanto uranio caricato ci mettete, per cui potete fare un'arma molto potente o un'arma piccolissima. Potete pensare di distruggere un intero bunker, oppure un carro armato, oppure uccidere una singola persona. E se ci mettete un milligrammo, uccidete una singola, è solo lui, insomma, in questo senso. Esiste un'immagine presa dalla televisione francese che io ho visto in Italia, che Rai 3 l'ha mandata in onda alle 2 di notte, una sola volta, in questo documentario francese si vede l'interno di un ricovero rifugio antiaereo a Baghdad, in cui un missile lanciato da un aereo, che evidentemente aveva una testata di questo tipo qua, aveva fatto un buco grande nella copertura di cemento del rifugio. E dice: diavolo, lo potete dire, sì, vabbè, ma come in Italia, anche a Baghdad, cioè le tangenti l'hanno fatto con cemento di pessima qualità, per cui si è bucato tutto. Può darsi. Però una volta entrato nel rifugio si osserva una cosa che fino ad allora si era osservata solo a Hiroshima, cioè sul muro del ricovero si vedevano le ombre fissate sul muro di tre persone, di cui una era una donna incinta, si vede chiaramente il pancione. Queste cose succedono tutte le volte che c'è un'esplosione che produce una temperatura altissima, che però decade immediatamente. Allora che succede? Che la persona vaporizza, diventa vapore e quindi sparisce, però siccome l'esplosione cala velocemente, resta la sua ombra sul muro, perché questa persona scherma il muro evidentemente dall'ondata di calore, per cui l'ondata di calore rende scabro il muro, tranne la parte dove c'è l'ombra della persona, che quindi rimane stampata sul muro. Per fare questo ci vuole una temperatura sufficiente a vaporizzare la persona. Ora, nessun esplosivo chimico è capace di vaporizzare una persona. L'ammazza, ma non la vaporizza. Solo un'esplosione nucleare è capace. E infatti fotografie del genere erano visibili, sono state prese sia a Hiroshima che a Nagasaki. Si vede sul muro la figura delle persone che in quel momento camminavano sul muro. Bene, queste fotografie, che fino allora erano state prese solo a Hiroshima e a Nagasaki, stavano tre in questo rifugio di Baghdad. Quindi in questo rifugio di Baghdad è accaduta un'esplosione nucleare, mini nucleare, questo bisogna dire, mini nucleare, perché chiaramente stavamo molto al di sotto della massa critica, per cui è avvenuta solo lì.